Open data, cos'è questa parola che ormai da diversi anni sta girando in vari circoli, e dal giornalismo all'attivismo, alle organizzazioni non governative, in molti settori. Diciamo che tutto parte con la rivoluzione digitale, internet e le possibilità che la rete ha offerto negli ultimi 10 anni, in termini di democratizzazione dei mezzi per fare informazione e per accedere all'informazione. Quindi credo che nei primi anni in cui si parlava di open data, l'idea era quella di avere accesso alle informazioni, poterla conoscere, poterla trasformare, poterla visualizzare e da qui, diciamo, avere un maggior impatto a livello pubblico. Quindi i giornalisti hanno iniziato a interessarsi di Open Data e altre organizzazioni non governative che si occupavano di libertà di informazione hanno fatto lo stesso. E poi è nato tutto il mondo delle cosiddette organizzazioni che si occupano di civic technology, cioè come usare la tecnologia, in particolare internet, per delle finalità pubbliche, quindi c'era chi si occupava di diritti umani e ha iniziato ad usare gli open data per i diritti umani, per le campagne di advocacy, c'era chi si occupava di informazione, chi si occupava di trasparenza. E questo è un po' il settore in cui io mi trovo a lavorare in questo momento, a cavallo fra tecnologia e diritti umani. Sì, la definizione di open data, penso che una delle migliori definizioni di open data è quella che dà Wikipedia. Wikipedia che definisce gli open data come dei dati che devono essere liberamente disponibili per tutti per riutilizzarli e ripubblicarli come meglio si crede, senza delle restrizioni legate ai diritti d'autore, il copyright o altre forme di meccanismo di controllo. Questo è un po' quello che è nato dietro è stata la filosofia che ha supportato la nascita di un movimento che si identifica nel movimento Open e in particolare degli Open Data. Da qui poi sono nati tantissimi progetti costruendo su quello che era stato anche altri movimenti prima del movimento Open Data. Penso al movimento Open Source, poi in seguito al movimento Open Hardware, al movimento Open Content, al movimento Open Access. Quindi ogni cosa che poteva essere liberamente condivisibile e accessibile è stata definita come Open Data. Poi sono arrivati i governi hanno iniziato a capire che poteva esserci un potenziale in questo, hanno accolto le richieste della società civile, in particolare in alcuni paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, e da lì sono nati i portali di open data dei governi. Quindi abbiamo visto la nascita del portale data.gov, del portale data.gov.uk, la Casa Bianca ha lanciato diverse iniziative. Sull'onda degli open data sono nate poi altre iniziative open, come in particolare le iniziative di open government, cioè come mettere la filosofia open, la filosofia collaborativa fra cittadini e istituzioni al servizio di quelli che sono i servizi pubblici fondamentali, quelli che sono l'accesso all'educazione, l'accesso alla sanità, l'accesso ai beni comuni, accesso a beni che devono essere comuni e quindi tutto un movimento che su questo ha fondato i propri principi, la propria filosofia di azione. E quello che diventa interessante capire in questo momento, dopo 10 anni in cui si parla di questi temi, è capire quale sarà il futuro di queste tematiche e quali sono, diciamo, i settori più promettenti da questo punto di vista. Come citavo prima, secondo me Open Government è un'evoluzione, diciamo, migliorativa ancora più efficace di quello che è il movimento Open Data. L'Open Government è una filosofia che va oltre la possibilità di accedere alle informazioni, che va oltre la possibilità di poterle riutilizzare le informazioni, ma cerca di creare un ecosistema più forte in cui l'informazione circola in tutti i settori, circola meglio in tutti i settori, dall'economia alla società, alla cultura, all'educazione, per cui tutti hanno accesso alle informazioni di cui hanno bisogno. In particolare l'Open Government vuole utilizzare questa potenzialità della rivoluzione digitale unita a una filosofia collaborativa e partecipativa fra cittadini ed istituzioni per migliorare le cose. Quindi questo, diciamo, è un utilizzo pratico nell'ambito della governance di quello che può essere la filosofia Open Data. Se uno dei trend futuri che si stanno vedendo in questo momento e che è molto molto interessante analizzare è come si sia passati nell'arco di 10 anni dal vedere la tecnologia come esclusivamente un'opportunità, per poi capire che la tecnologia ha anche un altro lato della medaglia e che quindi può anche essere una minaccia e può anche farsi regredire su quelle che sono invece le conquiste e i progressi che grazie alla tecnologia abbiamo raggiunto. Oggi possiamo comunicare in tempo reale con chiunque vogliamo, però questa opportunità è anche carica di molti, carica di molti rischi, come diciamo il caso Snowden e le rivelazioni del whistleblower americano hanno dimostrato. Possiamo avere la possibilità di comunicare in tempo reale, ma allo stesso tempo siamo soggetti a dei meccanismi di sorveglianza da parte dei governi molto molto forti e invasive. Quindi ora, secondo me, il dibattito che il mondo degli open data e il mondo dell'open government in generale deve affrontare e che sta affrontando è qual è il giusto bilanciamento fra le opportunità e i rischi della tecnologia, qual è il giusto bilanciamento fra la filosofia open ed altri principi altrettanto importanti come la privacy e le libertà civili. Quindi questo secondo me è un po' il quadro all'interno del quale ci muoviamo in questo momento. Sì, il diritto di sapere, come nasce questo portale? Diritto di sapere nasce dalla considerazione che io e Guido Romeo abbiamo avuto qualche anno fa sul fatto che in Italia mancasse una legge di accesso all'informazione. Come in altri paesi mi era già consolidata, in particolare negli Stati Uniti, in particolare nei paesi del nord Europa e in paesi come ad esempio l'Inghilterra, hanno da molto tempo hanno una legge che si chiama Freedom of Information Act, che consente a tutti i cittadini, senza doverlo giustificare, di poter usare il proprio diritto umano alla libertà di espressione per accedere ai dati che i governi e le informazioni che i governi detengono. Questo perché non esiste una democrazia avanzata senza che ci sia una cittadinanza informata. Quindi il poter accedere alle informazioni è il prerequisito per poter prendere delle decisioni consapevoli e poter partecipare in modo efficace al processo democratico. Quindi se voglio partecipare come cittadino, se voglio esprimere non solo il mio voto, ma anche comunque voglio fare bene il mio ruolo di cittadino, non posso farlo se non ho accesso a delle informazioni fondamentali che vanno dalla spesa pubblica, che vanno dai servizi, che vanno da tutta una serie di tematiche su cui i governi raccolgono delle informazioni che dovrebbero essere liberamente accessibili dal punto di vista giuridico. Quindi quello che il diritto di accesso all'informazione tenta di fare è di creare l'altra faccia della medaglia degli open data. Quindi gli open data significa avere informazioni da parte dei governi in un formato aperto dal punto di vista tecnologico, mentre il diritto di accesso all'informazione è lo strumento che consente di avere dei dati aperti dal punto di vista giuridico, perché se questi dati non possono essere poi effettivamente utilizzati, conta poco il fatto di poterli avere in un formato digitale che consente il riuso, la trasformazione e la ripubblicazione. Quindi da questo punto di vista sono due cose che vanno in parallelo. Su questa considerazione abbiamo costruito uno studio che verteva sul diritto di accesso all'informazione in Italia da parte dei cittadini italiani. Ok, quindi il diritto di accesso all'informazione, diciamo, è uno strumento che va in parallelo con gli open data. Gli open data sono dei dati aperti dal punto di vista tecnologico, mentre il diritto di accesso all'informazione consente al cittadino di poter accedere, di avere il diritto di accesso a questo tipo di dati e quindi consente di assicurare al cittadino l'apertura non in termini tecnologici ma in termini giuridici. In moltissimi paesi, 100 paesi al mondo, questo è possibile grazie a una legge che si chiama Freedom of Information Act, per cui ogni cittadino, anzi non solo i cittadini, ma ogni individuo può chiedere ad un governo, indipendentemente dal fatto che sia cittadino o meno di quel governo, può chiedere accesso alle informazioni governative, perché sono informazioni che comunque dovrebbero essere pubbliche e che i governi per una serie di motivi non rendono pubblici. Non perché sono informazioni controverse, nella maggior parte dei casi semplicemente non esiste all'interno dei governi un sistema di gestione delle informazioni tali per cui possano essere facilmente riutilizzabili dai cittadini. Quindi con questo progetto siamo partiti nel 2012 con l'idea di creare un primo studio di monitoraggio sull'accesso alle informazioni in Italia, che abbiamo realizzato nel 2013. E con questo studio abbiamo raccolto la disponibilità di 33 volontari, fra giornalisti, attivisti e semplici cittadini, che hanno scritto e spedito a più di 30 istituzioni pubbliche italiane, da ministeri a regioni a comuni, 300 richieste di accesso all'informazione, che andavano richieste di accesso ai dati sanitari, di accesso ai dati ambientali, dati sulla scuola, su tematiche molto, molto varie e non controverse, quindi non tematiche ad esempio legate a tematiche su cui poteva esserci un segreto di Stato oppure tematiche sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale o lesive della privacy delle persone. Quindi con queste richieste sono state fatte e monitorate per 2 mesi e le abbiamo poi analizzate e messe in un rapporto che si chiama Silenzio di Stato 2013, che è il primo rapporto sull'accesso all'informazione in Italia. In Silenzio di Stato si dimostra come il diritto di accesso in Italia praticamente non esiste, 3 volte su 4 le informazioni vengono negate. E la possibilità da parte dell'amministrazione pubblica di avvalersi del silenzio amministrativo nega al cittadino una risposta, sia che la risposta sia negativa, che se la risposta sia positiva in termini di accesso ai dati. Quindi in altri governi il silenzio amministrativo non esiste, perché quando il governo riceve una richiesta dal cittadino è obbligato, da un periodo che va da 2 a 4 settimane, è obbligato a rispondere al cittadino anche in senso negativo, ma comunque la richiesta deve essere accolta, registrata e il cittadino ha diritto a una replica e a una risposta. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo creato le condizioni per quella che poi in futuro è diventata una campagna di pressione a livello governativo per ottenere una legge di informazione in Italia che sia quantomeno adeguata agli standard minimi internazionali. Quindi quello che chiediamo e continuiamo a chiedere con questa campagna a cui hanno partecipato tantissime organizzazioni in Italia, chiamata FOIA for Italy, è che anche l'Italia si adegui e adotti una legge di informazione simile a un Freedom of Information Act. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando ormai da un paio d'anni, supportati da febbraio, da un mese, da una piattaforma tecnologica che si chiama Chiedi, che è la prima piattaforma tecnologica che in Italia consente ai cittadini e a chiunque di fare delle richieste di accesso all'informazione in Italia in modo automatizzato. Quindi noi prendiamo attraverso la piattaforma che raccoglie gli indirizzi piano piano di tutte le amministrazioni pubbliche italiane, raccogliamo le richieste sul nostro sito e il software, che è un software open source alla Vetteli, ci consente poi di mandare queste richieste, monitorarle in modo automatizzato e quando ricevono una risposta vengono poi rimandate a chi ha realizzato la richiesta. Chiedi fa parte di una famiglia di piattaforme che usano il software alla Vetteli, lanciato dall'organizzazione non governativa inglese My Society. In Inghilterra questo tipo di piattaforma ha avuto grandissimo successo quando è stata lanciata. E piano piano si sta propagando e diffondendo in molti paesi. Diritto di Sapere è il partner italiano di My Society e quindi anche noi piano piano ci stiamo dotando di strumenti tecnologici dal punto di vista civico che ci possono aiutare nel supportare le nostre campagne e soprattutto possono fare in modo che in futuro il diritto di accesso sia una cosa talmente facile dal punto di vista giuridico e tecnologico per cui ogni cittadino lo può fare. Quello che stiamo cercando di fare ora è capire come questo tipo di come mettere assieme questi vari mondi, quindi il mondo che si occupa di tecnologia, chi si occupa ad esempio di media digitali, chi si occupa di informazione, chi si occupa di whistleblowing, giornalisti, attivisti ed altro, cercare di creare una grande coalizione, delle grandi, diciamo, più una collaborazione molto più forte ed efficace fra questi mondi che lavorano alle volte in modo parallelo, però su cose che hanno molto, molto in comune. Quindi quello che cerchiamo di fare è creare, diciamo, delle piattaforme collaborative fra organizzazioni che vadano oltre il fatto di avere una piattaforma online. Quello che serve è creare delle comunità forti in termini di attivismo. E in particolare quello che stiamo cercando di fare con una nuova iniziativa che si chiama Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili è quello di dimostrare che i diritti fondamentali sono indivisibili e quindi non è più il caso di lavorare e fare campagne solo per un singolo diritto, ma quello che ci serve nella società in questo momento, soprattutto in Italia, è che tutti abbiamo un accesso a è che ci sia un accesso all'informazione per tutti, ma soprattutto la possibilità di lavorare assieme per una società che tuteli molto i diritti. Il nostro slogan come Coalizione Italiana per le libertà e i diritti civili e le libertà degli altri, che sono anche i tuoi diritti, per far capire come le libertà e i diritti sono fra loro interdipendenti e indivisibili, cosa che è abbastanza nuova, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Ma anche a livello internazionale non sono molte le organizzazioni che lavorano in coalizione. Quindi quello che la Coalizione Italiana per le libertà e i diritti civili fa è raccogliere finora più di 30 organizzazioni che in Italia si occupano di vari temi legati ai diritti umani fondamentali, dall'antidiscriminazione ai diritti dei rifugiati e dei migranti, diritti di libertà di espressione, diritti delle persone che sono in carcere. Quindi tutta una serie di grandi tematiche che trovano una convergenza e una piattaforma di dialogo comune sulla coalizione per le libertà civili. Quello che faremo come primo evento pubblico è proprio legato a questo tema. E in particolare quello in collaborazione che siamo riusciti a fare in collaborazione con le ACLU, che è il Consiglio delle Libertà Civili, l'Unione delle Libertà Civili americano, è quello di portare per la prima volta in un'iniziativa italiana il Festival del Giornalismo. Il Edward Snowden, che è il whistleblower, che come contractor dell'NSA americana ha svelato il retroscena di questo sistema di sorveglianza di massa che gli Stati Uniti con altri governi hanno messo in piedi per poter sorvegliare a livello di massa tutte le organizzazioni. E quindi quello che va fatto appunto per noi è capire come possiamo portare anche in Italia questo tema. In particolare quello che ci preme portare all'attenzione dei media italiani è che ci sia un dibattito pubblico su questo. Sappiamo che ci sono, diciamo, delle posizioni molto distanti fra chi sostiene i diritti fondamentali e la privacy e chi dice che questo sistema di sorveglianza di massa è necessario per sconfiggere il terrorismo ed altre minacce alla sicurezza nazionale. Quello che vogliamo è cercare di mescolare. Non di mescolare, ma cercare di mettere assieme queste persone, cercare di capire le varie posizioni, come è possibile trovare una sintesi che da una parte sia rispettosa delle libertà fondamentali e dall'altra garantisca ai governi la possibilità di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Quello che stiamo vedendo è che negare le libertà civili, e su questo diciamo, Guantanamo ha insegnato qualcosa, negare le libertà civili non ci porta a fare dei progressi dal punto di vista del terrorismo e la sorveglianza di massa no, non è riuscita a prevenire attentati terroristici dopo l'11 settembre in maniera efficace. Quindi da questo punto di vista serve un cambio di paradigma, ma senza un dibattito pubblico su questo non esiste la possibilità di un cambio di paradigma. Quindi per tutti, diciamo, il festival è l'occasione per poter discutere, dibattere e ascoltare su questi temi. Andrea Malapace, ti ringrazio Ok, tantissimo grazie per a il tuo tempo e ci sentiamo. te. Va bene, ti ringrazio. Prima. Ciao di Ciao, nuovo, ciao, grazie. ciao, ciao.